sé da sempre, anche quando sono solo tu. Sei vicino a me, mi dici sempre ok, creando nuovi sogni per me e te. Sorridi e dici che i tuoi occhi sono miei e il tuo cuore brucia solo per me. Hai tante fantasie e troppe gelosie e tu dovrai dividerti con me. Il tuo vivere, io voglio dividere la nostra felicità. Dammi il tuo vivere. Tu non mi vedi, ma io sono sempre qua. Dio ci proteggerà. Dammi il tuo vivere. Da lontano vedo te, ti attiro verso me. Adesso devi vivere con me. Ma guarda che anima, bella senza età. E non sarà più un sogno ma realtà. Io non mi arrendo mai, e questo tu lo sai. Io dono la mia vita a te ormai. Non chiedo nulla mai, sei libera e lo sai. Puoi fare tutto quello che vorrai. Il tuo vivere, io voglio dividere la nostra felicità. Dammi il tuo vivere. Tu non mi vedi, ma io sono sempre qua. Dio ci proteggerà. Dammi.